Desil olesiamus, desil olesiamus, desil olesiamus. Da noi, tu lucente, tu luminoso Hohorn, spirito vitale, frutto del ventre. Da noi, tu lucente, tu luminoso Hohorn, spirito vitale, frutto del ventre. Da noi, tu lucente, tu luminoso, Hohorn, spirito vitale e frutto del ventre. Oppla, maschietto, oppla, oppla, maschietto, oppla, oppla, maschietto, oppla. Universalmente stimasi essere quella persona di acume minimamente perspicace rispetto a qualsiasi materia tenuta in conto di profittevole dai mortali di sapienza provveduti quale oggetto di studio, la quale è ignorante di quello che i più eruditi nella dottrina e sicuramente in virtù di questo adornamento dell'elevato loro spirito, meritevoli di venerazione, costantemente sostengono nell'affermare con unanime consenso a parità di ogni altra circostanza, da aver un decoro esterno, essere la prosperità di una nazione più effettualmente asseverata che dalla misura dell'estensione del progredire del tributo della sua sollecitudine per quella proliferante continuità che di ogni male è fonte quando vi è meno, mentre all'inverso, qualora sia fortunatamente presente, costituisce segnacolo certo dell'incorrotto beneficio della onnipollente natura. Dapoiché chi è quegli che alcunché d'una certa qual significazione abbia appreso e non sia cosciente che quello esterno decoro può ben essere la superficie di una lutulenta realtà incline ad adimarsi? Ovvero, al contrario, chi può essersi obnubilato da non percepire che come verun beneficio di natura può contendere contro la provvidenza della moltiplicazione, così giova a ogni probo cittadino il volgersi ad esortare e ammonire i suoi simili e paventare che quanto ebbe inizio in passato dalla nazione eccellentemente non abbia ad essere in futuro con non similare eccellenza compiuto qualora un abito di inverecondia dovesse gradualmente far tralignare le onorevoli dagli avi tradite costumanze a un tal punto di bassura che quegli sarebbe stato eccessivamente temerario che avesse avuto l'ardire di sorgere ad affermare non poter esservi più odioso crimine per parte di chiunque del negligere obliviosamente di consegnare quello evangelico comandamento e insieme promissione che a tutti i mortali, con profezia di abbondanza o con minaccia di diminuzione, ha sempre mai quella sublime funzione del reiterato procreare irrevocabilmente ingiunto? Non a cagione di questo, resteremo noi dunque ammirati se, come i migliori storici ci tramandano, tra i Celti, i quali niente che non fosse per sua natura mirabile ammiravano, l'arte della medicina sia stata tenuta in tanto onore. Per tacere degli ospitali, dei leprosari, delle camere d'essudazione, delle fosse della peste bubbonica, i loro maggiori cerusici, gli Oscil, gli Oichi, gli Olis, hanno sedulosamente dettato i metodi diversi per i quali i malati e i recidivi recuperavano la sanità, sia che il morbo fosse il parletico o il giallo flusso fecale. Sicuramente, in ogni pubblica opera che alcunché di grave comporti, la preparazione dovrebbe all'importanza esser commensurata e pertanto un disegno fu da coloro all'uopo adottato, fosse virtù di preveggenza o fosse la maturazione dell'esperienza, è difficile il dirlo, dapoiché Le discrepanti opinioni dei susseguenti inquisitori non sono tuttora pervenute a una fruttifera congruenza, per lo che la maternità fosse da ogni accidentale caso protetta, sì che qual si sia cura per la paziente in quell'ora asperrima per una femmina si richiedesse, e non solamente per l'opulentemente facoltosa, ma anche per colei che fortuna avesse avuto a dispitto e potesse a malapena, e sovente neppure a malapena, sostentarsi, fosse validamente e per un infimo emolumento provveduta. A costei nulla già allora e nel seguito era in nion modo tale da esserle di molestia, perché questo era primariamente sentito da tutti i cittadini. Non essere, cioè, se non per madri prolifere prosperità possibile, e siccome avevano ricevuto i dii, l'eternità, mortali, la generazione acconcia a loro considerando, quando così davasi il caso, la partoriente in veicolo, ivi trasportando desiderio immenso in tutti, l'una l'altra urgendo di essere in quel domicilio accolte. O gesta di prudente nazione, non solamente al vedersi, ma pur anco al riferire, degna d'ogni lode, in quanto essi in lei per anticipazione vedevano la madre, in quanto che essa da loro subitamente d'essere per essere blandita sentivasi. Infante ingenerato in sorte ebbe Letizia, nel ventre venne venerato. Ciò che acconcio cade in tal caso fu acconciamente fatto. Un giaciglio dalle mammane circondato con sano cibo ristoratore e pannilini lindissimi, quasi il parto già compiuto fosse, con preveggenza disposti. Senza contare i medicamenti di cui è mestiere e arnesi di cerusico acconci al caso, e senza obliare l'aspetto dei più ameni spettacoli in differenti latitudini del nostro globo terrestre, offerto insieme alle immagini divine e umane, la cogitazione delle quali, per parte di femmine tratte all'ospitale, tumescenza produce, ovvero agevola il fuorescere nella eccelsa assolata, ben costrutta, splendida magione delle madri, allorquando, ostensibilmente avanzata nel processo e sul punto di riprodursi, convien che essa ivi giaccia, che la sua ora è venuta. Tal che per lo mondo sen giva, posò presso alla soglia in sul far della notte. Della gente d'Israele era colui che per il mondo lungi errando era andato. Mera carità d'uomo, il compito che lui solingo sospinse a quella magione. Di quella magione Ahorn è signore. 70 letti ivi egli tiene, laddove le madri prolifiche usano giacersi, onde travagliare e generare pargoli vigorosi, siccome l'angelo di Dio disse a Maria. Vigilanti son due che ivi s'aggirano, immacolate sirocchie nell'insonne spitale. I bollori blandiscono, molcendo il morbo, in 12 lune 3 fiate 100. Fedeli del letto serventi amendue sono, per Horn vigili vegliando. In vigile vigilia, udendo la custode appressarsi quell'uomo dal tenero cuore, incontanente levatasi col collo insoggolato, grande per lui la porta aprì. Or mira, fulminia folgore in fulgida balenante d'Irlanda, letra all'occaso. Grande fu la sua tema che l'Iddio vindice l'umana specie tutta nell'acqua perdesse per i suoi neri peccati. Di Cristo il santo segno sopra il seno ella fecesi, e colui a sé trasse onde prestamente sotto il suo tetto ingredisse. Quell'uomo, siccome onesta conoscendo la sua volontà, entrò nella magione di Horn. timoroso d'intrudere nell'aula di Horn, nelle mani tenendo il cappello, il cercatore istette. Nel loco di colei aveva dapprima egli vissuto con l'amata moglie e la figlia accorta, ei che per terra e sulle distese del mare per ben 9 anni aveva lungi vagato. Una fiata lei nel porto della città incontrando, alla di lei riverenza, ei non avea scoperto il capo. Da essa il perdono ora impetrava, con buone ragioni da lei riconosciute, dappoiché quel volto da lui così fugacemente percepito, di lei, sì giovine allora era gli apparso. Luce fuggevole accese i di lei occhi, rapido rossore le di lui parole provocando. Come poi gli occhi di lei percepirono gli atri vestimenti di lui, doglianza sua, ella pertanto paventò. Lieta poi fu quella che pria erasi isbigottita. Ad essa ei chiese se fossevi qualche novella di O'Hare il cerusico dal suo lontano lito, ed ella, con doglioso sospiro, a lui rispose che O'Hare il cerusico se n'era gito in cielo. Triste fu l'uomo all'udire quei motti che sì furono gli gravi alle viscere misericordi. Tutto essa tosto gli narrò, piangendo la morte del sì giovine amico, seppur fissamente non disposta a dubitare dell'infinita sapienza di Dio. Disse che colui aveva avuto una bella e dolce morte in grazia della divina bontà, con un prete a confessarlo, l'ostia santa e il sacro olio alle membra sue. Allora l'uomo chiese disioso alla monaca di qual morte il morto fosse morto, e la monaca risposegli e disse che era morto nell'isola di Mona per un canchero al ventre, saranno 3 anni alla natività di nostro Signore. E che essa pregava iddio onni misericordioso di tener appo di sé la sua cara anima per l'eternità. Egli udì i suoi tristi motti, triste lo sguardo, affissando nel cappello che i saldo tenea. Così, amendue stettero alquanto colà in sconforto, l'un con l'altro dolendosi. Or dunque, uomo, chiunque tu sia, guarda a quella fine estrema che è la tua morte e alla polvere che afferra ognuno che sia nato di donna, perché come egli uscì ignudo dal grembo della madre, così ignudo dovrà egli dipartirsi alla fine per andarsene come ne venne. L'uomo che era venuto a quella casa parlò allora alla custode degli infermi e dimandolla della condizione della donna che colà giacevasi a parto. La custode risposegli e disse che quella donna aveva le doglie oramai di 3 dì e che era nascimento periglioso e duro a sofferire, ma che in breve lasso di tempo sarebbe oggimai stato fornito. Disse in aggiunta che molte donne aveva visto partorire, ma veruna mai in altrettale distretta. Indi narrò tutta l'istoria, poiché conoscea l'uomo che ora molt'anni era vissuto non lungi di là. L'uomo attendeva ai suoi motti, perché i meravigliava alle donnesche doglie nel travaglio che hanno per la maternità, ed era grandemente ammirato al mirare il volto di lei, che leggiadro volto appariva ad ognuno. E tuttavia essa era rimasta pulzella assai tempo. 9 fiate, 12 flussi di sangue, rampognandola d'esser di pargoli priva. E nel mentre favellavano, la porta del maniero s'aperse, e a loro s'appressò un possente rumore, come di molti che ivi sedessero a convito. E ne venne nel loco ove essi stavano un giovine cavaliere cadetto che nomavasi Dixon, e il viatore Leopold eragli conto, dappoiché si dava il caso che essi stati fossero l'un dell'altro intrinsechi, nella magione di Misericordia, ove questo cavaliere cadetto dimorava, imperocché il viatore Leopold era quivi venuto onde risanarsi, poiché era stato gravemente ferito al petto da una lancia, con la quale un orrendo e terribile dragone avealo colpito, per il che colui lo provvedette d'un unguento di sale volatile e un crisma di quantità bastevole. Ed ora disse che dovea entrare in quel maniero onde allegrarsi con coloro che quivi erano. E il viatore Leopold disse che ei dovea recarsi altrove, poiché egli era uomo assai cauto e sottile. E anche la dama fu del suo avviso e rampognò il cavaliere cadetto, benché ella ben sapesse che il viatore aveva detto cosa falsa nella sua sottilità. Ma il cavaliere cadetto non volle accettar diniego, né ricevere il comandamento di lei, né ammettere alcunché di contrario al suo piacere, e disse come quel maniero era maraviglioso. E il viatore Leopold entrò nel maniero a posar le membra per alcun tempo, perché egli era assai stanco per il molto itinerare in diverse contrade e per l'arte di veneria da lui alcun tempo seguita. E nel maniero era apparecchiata una tavola di legno di betulla di Finlandia, sostenuta da quattro nanetti di quella contrada, ma non osano muoversi per una malia. E su questa tavola erano orribili spade e coltella che sono fatte in una caverna grande per demoni che s'adoperano tra bianche fiamme e le fissano di poi nelle corna di bufali e cerbiatti, di cui è maravigliosa abbondanza. Ed erano vaselli molti, fatti per incantamento di macone, di sabbia, di mare e dall'aere, da un negromante col fiato, che gli per entro vi spira quasi fossero bolle. E bella e ricca in bandigione era sulla tavola, che niuno più bella né più ricca avrebbe potuto divisare. Ed era un bacino d'argento che aprir non potevasi se non per un sortilegio, entro il quale erano di strani pesci senza testa, per quanto i miscredenti neghino che questa sia cosa possibile finché non l'abbiano veduta, e ciò non di meno così è. E questi pesci si giacciono in acqua oleosa, ivi portata dalla contrada portoghese, a cagione della natura grassa che è in lei come i succhi del torchio delle olive. E anche era grande maraviglia il vedere come in quel maniero, per incantamento, essi traggano una mistura dai grani fecondi del formento di Caldea, che con l'aiuto di certi mali spiriti che essi ivi introducono, enfiasi in modo mirabile, similmente a una montagna grande, e apprendono colà alle serpi da torcersi attorno a lunghe verghe fuor della terra, e dalle squame d'esse serpi cavano un beveraggio simile all'idromele.